Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ci siamo. Giovedì 16 luglio del 2009, le 14 in punto. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza, ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. Oggi diversi collegamenti, anche qualche visionario per parlare delle uscite in sala e dei film già in programmazione, per cui subito ci mettiamo in contatto. Aspettate un attimo. Buon pomeriggio a Roy Menarini, responsabile della programmazione della 28esima edizione del Festival alla migliore sceneggiatura, premio Sergio Amidei a Gorizia dal 16 al 25 luglio. Ben trovato. Ben trovato, un saluto a tutti. Come stai? Bene, bene, indaffarato, primo giorno di festival, ce ne mancano ancora tanti, ma tutto bene, grazie. Oh, tra l'altro questa è la prima volta che noi ci sentiamo. È vero. Per quanto riguarda questo festival, quindi parlacene pure tranquillamente. Ma guarda, è un festival che ha una sua originalità, secondo me, perché è un festival che è nato come un festival sulla sceneggiatura, sì. E quindi in qualche modo è anche un po' l'unico in Italia che se ne occupa in maniera così diretta. Però nel corso degli anni ha preso anche una fisionomia un po' diversa, quindi dalla sceneggiatura siamo passati a un'idea di scrittura anche più in termini più ampi, quindi sì. Un po' l'immaginario che sta dietro ai film, i travasi di idee, le preparazioni e persino altre forme di scrittura per il cinema come la critica e altro ancora, quindi è diventato un po' un festival di scrittura cinematografica. Bene. Oh, e poi anche ho visto anche recupero di pellicole in bianco e nero. Sì, allora in pratica ci sono una serie di film, naturalmente le sezioni sono tante e non sto ad elencarle una per una, dico solo, faccio alcuni esempi. Uno è il fatto che durante il nostro festival, lunedì tra la notte, tra lunedì 20 e il martedì 21 luglio, si festeggia l'allunaggio, se ne parla tanto in questi giorni, e allora noi abbiamo pensato, invece che fare la cosa che fanno un po' tutti, cioè ricordare la luna attraverso le trasmissioni dell'epoca e così via, provare a vedere com'era stata immaginata la luna dal cinema prima del 1969. Uh-huh. Ed ecco quindi una serie di film molto rari. Oggi pomeriggio per esempio proiettiamo La donna nella luna di Fritz Lang, che è un capolavoro muto del 29. Ci saranno film addirittura dell'archeologia del cinema, quindi Méliès e altri del cinema primitivo, anche piccole cose divertenti, Totò nella luna, Buster Keaton nella luna e così via, una sorta di selvaggio viaggio dentro l'immaginario lunare prima che capissimo come era fatta veramente. Sì. E senti, prima di questo, cioè oltre a questo immaginario lunare, volevo chiederti come su cosa vi siete basati per la scelta delle pellicole per gli altri film che sono presenti al festival. Ma guarda, la scelta è così. Allora, c'è una sezione che è quella che noi chiamiamo concorso, che però non ha a che fare con film inediti, nel senso che viene premiata la miglior sceneggiatura dell'anno, quindi sì. Vengono ripresentati alcuni film dell'anno e alla fine del festival una giuria attribuisce il premio alla miglior sceneggiatura dell'anno dei film già usciti durante questo anno. Sì, sì. Di film. Poi appunto ci sono tutta un'altra serie di sezioni che hanno a che fare, come dicevo prima, col tema della scrittura, per cui i film prescelti, diciamo, per il concorso o quelli che devono essere premiati sono stati scelti dai selezionatori storici del festival, con nomi anche importanti, Ettore Scola per esempio, Suso Cecchi d'Amico e altri ancora, che hanno individuato alcuni dei film migliori dell'anno e poi decideranno quale sarà il vincitore. Sì. Mentre per le sezioni collaterali si tratta appunto di fare dei percorsi, di scegliere quindi pellicole il più originali e rare possibili, che culminano in particolare con poi il premio alla carriera, all'opera di un grande regista o sceneggiatore che quest'anno è Paul Schrader. Ecco qui, siamo arrivati a Schrader, infatti che è insomma il nome di punta di questa edizione. Dici qualcosa rispetto alle cose che presenterete, insomma, e al personaggio? Dunque, guarda, noi Paul Schrader lo inseguivamo da un po' di tempo. Devo dire che insomma negli anni scorsi abbiamo avuto grandi personalità, Ken Loach, Kiarostami e tanti altri, però insomma Paul Schrader davvero sembra incarnare un po' la nostra idea, perché è un soggettista, uno sceneggiatore, un regista, ma anche un critico cinematografico, tant'è che pochi se lo ricordano, ma è stato un critico del Los Angeles Free Press, e pubblichiamo in occasione del festival le sue recensioni, che non sono mai state tradotte in Italia. Insomma, un po' tutto come intellettuale di cinema, ed è legato chiaramente a grandissimi film, le sceneggiature per Scorsese, Taxi Driver, Toro Scatenato, le sue regie, American Gigolo, Il Bacio della Pantera, Lo Spacciatore, tanti altri. Quindi facciamo un omaggio molto ampio ai suoi film, sia da sceneggiatore che da regista, e poi lo ospitiamo appunto per farlo incontrare al pubblico e donargli questo premio per un'intera vita da intellettuale del cinema prima ancora che da regista. Allora, 28esima edizione, quindi un lungo percorso storico. Volevo chiederti com'è il rapporto rispetto alla città di Gorizia e al pubblico. Ma guarda, è un rapporto che è stato costruito lentamente ma inesorabilmente, nel senso positivo del termine. Qui c'è anche un'università, tant'è che io adesso parlo da coordinatore del festival, ma sono anche docente del DAMS di Gorizia, sì. Quindi una studenti di cinema molto numerosi, c'è il festival, ci sono altri piccoli eventi, piccoli grandi eventi in città, quindi come dire sta diventando, sia pure essendo una città un po' di confine, sta diventando una piccola città del cinema, insomma, qui al confine con Slovenia, Austria e altre realtà, insomma, che paradossalmente fa di Gorizia e del nostro festival qualcosa quasi più internazionale che non nazionale, cioè più conosciuto all'estero che in Italia, ma insomma una dimensione che si sta allargando, quindi al momento ha un po' tutti i vantaggi della situazione di provincia e pochi svantaggi della stessa. Bene, allora Roy, si parte oggi, e il programma consultabile sul sito, immagino. Esatto, www.amidei.com, c'è tutto il programma, ci sono le news, ci sono tutte le condizioni di entrata, che in verità al 99% sono gratuite per tutti quelli che vogliono vedere i film. Abbiamo una filosofia molto popolare, per cui chi è nella zona può godersi un bel po' di film gratuiti. Bene, allora un abbraccio, in bocca al lupo, a presto. Grazie Crepi, un abbraccio anche a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao. Roy Menarini, uno dei responsabili della programmazione della 28esima edizione del Festival alla migliore sceneggiatura, premio Sergio Amidei Gorizia, da oggi 16 luglio fino al 25. Andiamo oltre. Pomeriggio ad Andrea Pellizzer, regista di Tre Lire Primo Giorno, ben trovato. Ciao, ciao, grazie a te. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto forte. Ok, allora partiamo subito dal fatto che io non ho visto il tuo film, però me ne hanno parlato, mi hanno detto anche che a Milano ha rappresentato un po' un piccolo caso rispetto all'uscita, e allora ti chiedo di illustrarcelo un po'. Wow. Allora, Tre Lire Primo Giorno è un piccolo film, sì, indipendente, realizzato da questa casa di produzione che si chiama Lire Tre Film, ed è l'opera prima della casa di produzione, ed è la mia prima opera, insomma. Il film ha come protagonista un 93enne che fino al giorno prima, diciamo, di cominciare a fare le riprese ha fatto il contadino, ed è mio nonno, e l'idea del film era quella di raccontare un viaggio di questo novantenne in giro un po' per l'Italia, accompagnato da un gruppo di infermieri che convince durante una notte a scappare dall'ospedale. Questo è un po', diciamo, il plot sì. del film. Poi non so, fammi tu qualche domanda. Sì, no, senti, l'idea del soggetto, poi come è venuta fuori, a parte insomma questo riferimento biografico. Allora, l'idea è, diciamo, all'inizio era partito un'idea di coinvolgere appunto mio nonno e fare un cortometraggio, sì. perché lui si è trasferito in città dopo aver vissuto 90 anni in campagna, perché era venuta a mancare mia nonna, e l'idea era di trovare un gioco, un modo per coinvolgerlo in qualche cosa che lo potesse divertire, anche perché sì. è molto vanitoso. poi pian piano che il progetto in qualche modo si è, come dire, un po' cresciuto, l'idea era quella di far recitare, anche per problemi di costi ma anche per voglia, di far recitare tutte le persone che lavoravano nella società in cui lavoro io, sì. e di trovare qualcosa di credibile per cui tutte queste persone si conoscessero e i rapporti fossero molto naturali, perché nessuno è un attore. Quindi l'idea era quella di un novantenne con un gruppo di giovani che si conosce bene, dove tutti sono molto, in qualche modo, hanno una grossa familiarità, si chiamano con i loro veri nomi e le dinamiche all'interno del gruppo sono identiche a quelle della vita. Questo era un po' un modo per riuscire a fare un film credibile, che per me era la cosa più importante. Mm-hmm. E poi, senti, durante il lavoro di sceneggiatura hai cambiato delle cose, insomma sei entrato in relazione con gli altri, ti sono venute idee, ti sono state suggerite idee, come ha funzionato? Allora, la sceneggiatura è stata fatta, diciamo, da uno sceneggiatore che è un mio carissimo amico, e il soggetto è stato fatto da me, sempre dallo sceneggiatore, e da un altro dei produttori sì. che è anche montatore del film, Morgan Bertacca e Massimo Donati sono le altre due persone. L'idea era quella di utilizzare al meglio tutte quelle che erano le nostre competenze specifiche, cioè prima di fare il regista io mi occupavo di cercare le location per i film, spot pubblicitari, eccetera eccetera, sì. e l'idea era quella di mettere un po' all'interno di questo viaggio tutti quei luoghi particolari, tutte quelle location, le più belle che avevo in qualche modo incontrato in un bel po' di anni di carriera, e anche quelle dove in qualche modo era possibile poi realizzare un film a costo zero. Sì. Quindi questa è l'idea anche del viaggio, cioè di riuscire a trovare tutta una serie di atmosfere particolari costruite attorno a delle situazioni particolari con dei personaggi particolari. La sceneggiatura e il soggetto hanno tenuto conto fortemente di questa cosa, perché che ne so, di girare all'ultimo piano del grattacielo Pirelli, dato che non era possibile realizzarlo, non l'abbiamo messo nella sceneggiatura. Adesso faccio un esempio sì, a caso, sì, sì, sì, sì. o nel mega ospedale ipermoderno con i saloni ipermoderni, quello era un po' impossibile. Sapevamo che stavamo cercando un ospedale piccolo, magari un piano mezzo abbandonato, dove era possibile poi realizzare le riprese, e un po' tutte queste cose hanno poi contribuito a, certo. alla storia, certo. questo è. Oh, e poi per quanto riguarda l'avventura distributiva, raccontaci un po' com'è andata questa... Allora, è un'avventura che continua, nel senso che la nostra, come dire, era la prima volta che facevamo un film, e di cinema non avevamo nessun tipo di esperienza né distributiva ma neanche produttiva. Sì. Okay. La nostra idea è quella, è sempre stata quella di essere il più indipendenti possibile da qualsiasi tipo di logica che ci erano state portate. Quindi sì. una volta ultimato il film, mandarlo indipendenti con copie DVD a tutti i festival dove il nostro film poteva rientrare in qualche categoria, in modo da avere una sorta di visibilità, una prima visibilità. Quando il film è stato cominciato a essere scelto ad un po' di festival internazionali, aumentare in qualche modo, crederci in maniera ancora più forte. Poi quando il film ha vinto il Beverly Hills Film Festival, a quel punto abbiamo deciso, anche perché era ormai da un anno che circolava un po' nelle selezioni dei festival in giro per il mondo, di trovare noi una sorta di distribuzione almeno nella città da cui proveniamo, che è sì, Milano. Sì. Quindi abbiamo fatto una sorta di vaglio, come se fossero proprio delle location in cinema, li abbiamo chiamati praticamente tutti, dovevano esserci tutta una serie di come dire, indicazioni particolari, cioè un cinema che avesse la possibilità di avere la possibilità della proiezione digitale, che avesse un certo numero di posti almeno per le prime date, poi una sala più piccola per riuscire a contenere la cosa, proporre al cinema una sorta di pianificazione pubblicitaria, di idee, di festa di lancio e continuare a rinnovarla, e così è stato. Mm-hmm. Quindi diciamo, quante copie in casa? Scusami? Quante copie quindi? Una copia. e quindi comunque visto che comunque mi hanno detto che è andata, che è stato un piccolo caso, immagino che abbia avuto un suo seguito. Sì, beh, la cosa è stata che adesso i dati ufficiali sinceramente gli ultimi non li so, però sicuramente in una sola sala ci sono passate più o meno 3500 persone, che sono tantissime. Sì. E anche perché la sala ha 100 posti, quindi in tantissime situazioni la gente che andava un po' incuriosita, un po' per il passaparola, non trovava posto, soprattutto le prime settimane. Quindi questa cosa ha aumentato un po' per un pubblico che è curioso, che vuole andare a vedere un film di cui ne sente parlare quasi di nascosto, perché non abbiamo fatto nessun tipo di pubblicità. Certo. Ha contribuito a creare un piccolo caso. E non era quello che speravamo, nel senso che non avevamo mai fatto vedere il film, non avevamo stampato delle copie DVD per farle vedere ad amici, insomma tutto il gruppo, tutte le persone con cui lavoriamo, con cui abbiamo lavorato abitualmente, abbiamo tenuto duro, abbiamo detto: se lo volete venire, venite al cinema. Senti, quando è stata l'uscita? È uscito il 17 di giugno. 17 giugno, e adesso com'è la situazione? Allora, adesso da quello che ho capito sicuramente è in onda al cinema fino al 19 di luglio, sì, fino a domenica. Sì. Noi domenica facciamo una sorta di festa aperta al Parco Sempione a Milano, al Bar, sì, Bianco, e poi ci sono un po' di proiezioni di rassegne, festival o in giro per l'Italia, diciamo per gli ultimi 10 giorni di luglio. E poi ci sono ancora un bel po' di festival che ci hanno chiamato, uno in Grecia, due negli Stati Uniti, insomma continua questa avventura per i festival e per cinema di circuiti indipendenti o meno, che sono incuriositi un po' da questa pellicola, che in realtà non lo è, e ci stanno chiamando per avere una copia e fare delle proiezioni. Bene. Senti, per chi fosse interessato, c'è un riferimento internet? Sì. Allora, il sito ufficiale del film, dove ci sono anche tutte queste informazioni, è www.trelire.com. Benissimo. Allora Andrea, in bocca al lupo e grazie, spero mille, di risentirti prossimamente. Benissimo, volentieri. Grazie a te. Un abbraccio. Ciao, grazie a te. Ciao. Andrea Pellizzer, regista del film Tre Lire Primo Giorno. E questo è Visionari su Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza dal 1977, senza padroni, senza pubblicità. Elisabetta Antonioni di Cinemovel, per parlare con lei di Libero Cinema in Libera Terra, cominciato il 7 luglio e in carovana fino al 26. Intanto ben trovata. Ben trovati a voi, buon pomeriggio. Come stai? Siamo arrivati a Erice, ci sono 38 gradi e la carovana, comunque siamo arrivati al giro di boa, perché oggi raggiungiamo la metà delle proiezioni. Il risultato di questo festival itinerante è molto buono, direi. La gente risponde abbastanza con partecipazione, e abbiamo fatto anche delle serate con moltissime persone che si sono fermate alla fine della proiezione, soprattutto quando c'erano i registi a presentare il film, hanno fatto delle domande, hanno chiesto informazioni, si sono informate soprattutto anche sui beni confiscati alla mafia, perché la caratteristica principale delle proiezioni di Libero Cinema è quella di rappresentare una novità per il luogo e per le modalità in cui vengono realizzate le proiezioni. Sì. Infatti questa questa cooperativa che ci ospita questa sera, la cooperativa Calcestruzzi Ricina Libera, è una delle cooperative più interessanti da questo punto di vista, perché è un esempio unico a livello nazionale. Finora noi abbiamo proiettato nei beni confiscati alla mafia, dove ci sono le cooperative che gestiscono i terreni, producono olio, producono vino, producono pasta. Sì. Questa è una cooperativa invece che nasce dalla confisca dell'azienda Calcestruzzi, che viene confiscata al boss Vincenzo Virga, e sei dei suoi ex dipendenti di questa azienda hanno costituito la cooperativa, che ora è un'azienda sana, pulita, produce calcestruzzi, ma soprattutto hanno realizzato un impianto innovativo di riciclo degli inerti dell'edilizia, quindi è un caso all'avanguardia, è il primo caso a livello nazionale. Allora, per chi ci ascolta, specifichiamo un po' bene le cose. Allora, la carovana attraverserà varie regioni, è passata in Puglia, poi c'è la Calabria, poi la Sicilia e poi la Campania e poi il Lazio. Esattamente. Proiezioni in paesi, in cittadine, in piazza, gratuite. Sì. Dove è previsto, oltre alla proiezione, anche l'incontro con registi, attori e anche appunto lavoratori di queste cooperative che lavorano, operano su terreni confiscati alla mafia, alla criminalità organizzata. È la quarta edizione. È la quarta edizione, per la prima volta quest'anno si sono unite altre due regioni, come dicevi tu, la Campania e il Lazio. Sì. La terza edizione, quella dell'anno scorso, aveva visto la carovana fare tappa in Puglia, in Calabria e Sicilia. Quest'anno abbiamo aggiunto la Campania, perché in Campania, a Castel Volturno precisamente, c'è una nuova cooperativa di Libera Terra che ha in gestione una stalla confiscata alla Camorra napoletana, dove verranno allevate le bufale per le mozzarelle e le asine per il latte. Si è aggiunto poi il Lazio, dove faremo tappa due proiezioni consecutive a Minturno, poi a Fiuggi e poi a Nettuno, perché la Regione Lazio ha istituito la Casa della Legalità, che è partita proprio in questi mesi e sta promuovendo una cultura della legalità in quei comuni dove l'infiltrazione mafiosa è più consistente. Stiamo parlando di riciclaggio di soldi, stiamo parlando di comuni come Nettuno sciolti per infiltrazione mafiosa. Quindi anche la Regione Lazio, anche se non esistono ancora cooperative di Libera Terra che gestiscono i beni, sta promuovendo proprio una stimolazione, possiamo dire, a livello culturale, per fare in modo che la coscienza dei cittadini e degli abitanti abbia ben presente quelle che sono i pericoli dell'infiltrazione mafiosa. Oh, è vero anche che stiamo promuovendo un discorso per l'autunno, sì, perché vorremmo portare la carovana di Libero Cinema in Libera Terra non solo nelle regioni del centro-sud Italia, ma affrontare con la carovana anche le regioni del nord, sì, perché sì, la mafia non è un problema che tocca solamente le regioni del sud, ma tocca tutto il nostro territorio. Mm-hmm. Volevo dirti, anzi anche per far capire a chi ci ascolta, e questo esperimento nasce da voi di Cinemovel, che avevate fatto un'esperienza analoga in Mozambico per alcuni mesi per una campagna contro l'AIDS. Sì, Cinemovel nasce per portare il cinema nei paesi impoveriti. Sì. Quando siamo partiti la nostra idea era di portare il cinema nel continente africano, e di usare il cinema come piazza universale di confronto per dare la possibilità alle persone che sono escluse dal dialogo, alle persone che non hanno accesso alla cultura, dare la possibilità di unirsi al confronto, quindi mettere insieme paesi con altri paesi, culture con altre culture. E il primo progetto, come dicevi, l'abbiamo realizzato in Mozambico e il Cinemovel è stata una piattaforma di comunicazione per affrontare il tema dell'AIDS. Sì. Il progetto successivo è stato realizzato in Marocco, dove abbiamo affrontato invece il tema dell'emancipazione femminile e dell'immigrazione. L'unico progetto che facciamo in Italia è Libero Cinema in Liberaterra, che nasce proprio dall'incontro con i giovani delle cooperative. E quando ci siamo resi conto dell'importanza del loro lavoro quotidiano per ridare dignità ai terreni che sono stati sottratti alle popolazioni, abbiamo deciso di proporre a Libera una carovana nei beni confiscati. Mm-hmm. Contemporaneamente alla carovana invernale stiamo lavorando a un altro progetto invece che riguarda sempre il continente africano, che è il cinema itinerante in Burkina e in Senegal, per parlare di mutilazioni genitali femminili. Mm-hmm. Allora arriviamo ai film. Quasi tutti affrontano il tema mafia, ma anche migrazione, rifiuti. Esatto, infatti sì. I film di quest'anno, i film che sono che vengono proposti, come dicevi tu, abbiamo il film dell'anno che è Porta Pace, che è quello che viene proiettato di più, però abbiamo anche Come un uomo sulla terra, sì, che riguarda il tema dell'immigrazione. Esatto, di Andrea Segre, e questo verrà presentato il 21 luglio a Minturno, e a presentarlo sarà Dagmawi Imer, che è il regista etiope che sì, ha partecipato, sì, che ha collaborato alla realizzazione del film. Abbiamo anche film... Oh, scusa un attimo, anche sì, una parentesi per chi ci ascolta, un documentario, abbiamo avuto anche ospite Andrea Segre qui in trasmissione, che affronta gli accordi Italia-Libia riguardo alle migrazioni. Insomma. Esatto, mm-hmm. E affronta anche il discorso dei cosiddetti centri di permanenza temporanea, sì, quindi sì, i campi sì, di concentramento realizzati in Etiopia con i contributi della comunità europea e del governo italiano. Sì, sì, sì, sì. Sulle ecomafie riproponiamo un documentario che è stato importantissimo l'anno scorso nella carovana, che è Beautiful Country, e sì, questo verrà presentato il 23 luglio a Fiuggi, e con noi ci sarà Beppe Ruggero a presentarlo. Sì. Poi abbiamo l'altro è il curatore del rapporto sulle ecomafie per l'ambiente. Sì, esattamente. Sì. E poi abbiamo proposto altri film come Milk, per parlare di diritti umani, L'Onda, per affrontare il tema dei totalitarismi e quindi dei linguaggi della privazione della libertà nei regimi totalitari e della privazione della libertà di pensiero nelle società e nelle economie che sono dominate dalle mafie. Sì, sì, sì. Oh, Elisabetta, la risposta di pubblico finora come sta andando? Dunque, la risposta di pubblico abbiamo avuto a Mesagne tutte e due le sere della piazza piena, lì abbiamo fatto Si può fare di Manfredonia, quindi abbiamo affrontato il discorso delle cooperative sociali che nascono dopo la 180, ma l'elemento principale era la possibilità di capire che attraverso la realizzazione delle cooperative si può fare economia, e si può fare economia nella legalità, e la risposta è stata c'erano 500 persone entrambi le serate. Sì. In Calabria abbiamo fatto un esperimento più difficile, perché abbiamo proiettato in una piazza, non nella piazza centrale del paese, ma abbiamo proiettato in una piazza dei quartieri della zona bassa della città, che dimostra anche un degrado architettonico evidente, però in quella piazza c'è un bene confiscato, e quindi la prima sera il pubblico era titubante, la seconda sera la piazza si è riempita e c'è stata una bellissima conversazione con Pasquale Scimeca, che presentava Placido Rizzotto. In Sicilia la carovana è nata in Sicilia, quindi questo è il quarto anno per la Sicilia, e stiamo avendo una risposta di pubblico molto interessante. Una delle serate in cui c'è stata integrazione tra il pubblico e il regista è stato l'altra sera a Partinico, dove abbiamo proiettato Voto Provenzano. Sì. Salvatore Fronio, alla fine della presentazione del suo film, aveva preparato una sorta di lezione, di conversazione col pubblico sul tema informazione mafia, e quindi il parallelo tra come l'informazione tratta gli argomenti, le tematiche legate alle mafie, e come la fiction televisiva rappresenta la mafia. Quindi è stato quasi un doppio appuntamento. E alla fine i responsabili della cantina, Real Cantina Borbonica, dove eravamo, ci hanno detto: scusate, noi dobbiamo chiudere. Capito. Senti, Elisabetta, allora in bocca al lupo per questa, visto che siamo al giro di boa, per il proseguimento della carovana, e a risentirci presto. Grazie mille. L'ultima cosa che dire, per chi non può essere fisicamente con noi, può seguirci sul sito www.cinemovel.tv. Benissimo, un abbraccio e a presto. Grazie, un abbraccio a voi, arrivederci, ciao. Ciao, ciao, ciao. Elisabetta Antonioni di Cinemovel per la carovana Libero Cinema in Libera Terra dal 7 al 26 luglio. A Franco Rina, direttore della settima edizione di Cinema da Mare, dal 4 luglio fino al 16 agosto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori. Come stai? Beh, stiamo molto bene, anche se un po' stanchi, perché come si intuisce già dalla data di inizio, dalla data di fine, qui è un lavoro molto duro. Allora, però diciamo che si tratta di un festival itinerante, sì, e che molto particolare. Se vuoi elenchiamo sinteticamente le nostre peculiarità. Come no, certo. Intanto dura 45 giorni. Sì. e quindi già è il festival più lungo del mondo. Poi è che poi è una tua creatura, se non sbaglio. Sì, no? Sì, certo. Poi è itinerante, nel senso che si svolge lungo tutto il sud, ci fermiamo una settimana per ogni regione. Abbiamo iniziato a Bari dal 4 al 9 luglio e ora in questo momento ci troviamo a Matera, dove staremo fino a stasera, quindi dall'11 al 16 luglio. Poi ci trasferiamo vicino Caserta, in un piccolo comune che si chiama San Potito Sannitico, e saremo lì per altri 6 giorni. Poi andiamo a Reggio Calabria, il 25, stiamo fino al 30 luglio a Reggio Calabria, poi dal 31 fino al 6 agosto ad Acireale, in Sicilia, e poi torniamo in Basilicata dal 10 al 15 agosto a Nova Siri, dove ci sarà la fase conclusiva. Bene. Poi l'altra caratteristica è che portiamo appresso 100 giovani registi che vengono da tutto il mondo. Eh sì, è quella la cosa principale, certo. L'incontro tra registi di tutto il mondo, giovani registi che hanno modo, insomma, di scambiarsi anche... di guardare i film e poi di fare film insieme. Quindi in questo momento abbiamo 48 nazioni presenti, da Hong Kong al Messico, dalla Siberia al Canada, insomma lavorano insieme, questa è la cosa più bella di Cinema da Mare. In ogni tappa, quindi in ogni città, in ogni regione, loro hanno una settimana di tempo per fare dei film. Al termine di questa settimana, cosa che succederà questa sera a Matera, a Piazza San Giovanni, noi proiettiamo tutti questi film fatti a Matera e ne premiamo i più belli. Sì. Oh, si tratta... che formato hanno? Sono... Questi film che vengono realizzati in ogni tappa partecipano alla weekly competition e hanno una durata massima di 10 minuti. Poi noi abbiamo un concorso generale, per cui abbiamo raccolto film da tutto il mondo fino al 15 maggio, e questi compongono il catalogo ufficiale del festival. Sono film lunghi, al massimo 25 minuti, che vengono da tutto il mondo, che noi in questi mesi abbiamo sottotitolato in italiano, quello in inglese, in modo che sia comprensibile a tutti il film, anche perché questa è un'altra caratteristica nostra. E la giuria è fatta dal pubblico di quella sera, quindi chi si siede in piazza, ovviamente non si paga niente, mai, nessuna attività del festival prevede un pagamento, quindi chi si siede sulle nostre sedie la sera rappresenta la giuria di quella sera, quindi noi sottotitoliamo tutti i film in italiano in modo che tutti possano comprendere il film e giudicarlo e votarlo. Ogni sera noi selezioniamo un film che poi andrà nella fase finale. Oh Franco, viste tutte queste tappe, vista anche la quantità di registi che partecipano a questo festival, immagino che siate un gruppo piuttosto numeroso e molto giovane. Sì, l'età va da 20 ai 30 anni. Sì. E sono appunto 100 giovani registi da 48 paesi diversi e siamo una quindicina di persone lo staff. Allora, un'altra caratteristica, e questa più che una mia scelta è una scelta obbligata, perché il festival ha un basso budget, e come riusciamo a fare 45 giorni di festival in giro per il sud? Perché dormiamo nelle scuole. Quindi ogni città ci mette a disposizione un edificio scolastico, noi abbiamo 100 letti, togliamo i banchi, mettiamo i nostri letti, trasformiamo la scuola in ostello, in laboratorio cinematografico, in set, perché in questo momento, proprio perché entro le 22 di questa sera devono consegnare i film, sono tutti quanti al lavoro con i montaggi, per esempio. Quindi questa è del cuore del festival, la scuola di ogni città, che si trasforma appunto in ostello, in dormitorio, in ristorante, in laboratorio cinematografico, in sale per lezione, perché il pomeriggio noi facciamo anche lezione di cinema, workshop. Io faccio vedere a questi ragazzi che vengono da tutto il mondo i più importanti film italiani, iniziando da Ossessione fino agli ultimi film importanti. E poi abbiamo anche dei grandi ospiti, perché a Bari abbiamo iniziato con Giuliano Montaldo, a Matera abbiamo avuto uno dei più importanti registi iraniani, Babak Payami, al Leone d'Argento nel 2001 a Venezia, vicino a Caserta, San Potito, avremo Mario Monicelli. A Reggio Calabria Zanussi e ad Acireale insieme a Vincenzo Mollicchia, tanta gente di cinema per parlare un po' dei problemi del cinema e soprattutto di cosa possa fare la televisione per aiutare il cinema. Quindi chiudiamo la nostra lunga stagione con Pasquale Scimeca a Novasiri, che è in provincia di Matera, dove si svolge l'ultima tappa. Per cui, come vede, non ci facciamo mancare niente. È un lavoro molto duro, però con grande soddisfazione, perché parlare di Pasolini, come a me è successo ieri sera, pensando di farglielo scoprire ad una ragazza afghana che invece aveva visto tutti i film di Pasolini in Afghanistan, è un'emozione. Per chi ama il cinema, chi ama la cultura, chi ama questo che è stato sicuramente il più grande intellettuale del nostro secolo, è un'emozione che è unica e che ti ripaga di tutte le fatiche. Franco, come sono andate finora le proiezioni? È molto bene, perché noi le proiezioni le facciamo la sera nella piazza più importante di ogni città. Bene. Quindi, al di là del richiamo oggettivo della manifestazione, c'è proprio la situazione di circostanza, perché noi ci mettiamo nel salotto più bello della città. E tutto è gratis, ci sono anche le sedie, quindi c'è un pubblico sempre numeroso. L'amministrazione comunale ci aiuta, perché ci spegne le luci e noi possiamo fare le proiezioni. Quindi grande attenzione, la serata è fatta in questo modo: prima facciamo i nostri film in concorso, che durano un'ora di film in concorso, e sono quei film che durano 25 minuti e che abbiamo raccolto entro il 15 maggio, che costituiscono il catalogo ufficiale, il concorso principale del nostro festival. Poi c'era una mia intervista ad un ospite, e l'ospite, ogni giorno abbiamo un ospite. Faccio questa intervista, poi o segue un film dell'ospite, se l'ospite è regista, oppure segue un documentario su un grande personaggio del cinema italiano o mondiale. Quindi ogni sera abbiamo 3 ore di attività molto frequentate, perché al di là della varietà e della vivacità dei nostri filmati, c'è proprio la voglia del pubblico d'estate di vedere qualcosa all'aperto. Franco, in chiusura, dacci anche il sito per chi volesse informarsi maggiormente. Allora, intanto Cinema da Mare è tutta una parola. Cinema da Mare, senza doppie vocali, quindi www.cinemadamare.com. Sul sito troverai anche i contatti telefonici, perché in questo momento la nostra manifestazione è on the road. Domani mattina, per esempio, carichiamo tutti i nostri letti e ci spostiamo a Caserta, quindi la giornata di domani la carovana si sposta vicino a Caserta. Quindi sul sito troveranno anche i numeri di telefono se vogliono raggiungerci in qualche tappa, oppure, ripeto, www.cinemadamare.com. E ovviamente dico il sito, e mi viene in mente una grande verità, è che Cinema da Mare, per esempio, senza il web, senza internet, non si potrebbe fare, perché noi teniamo ogni giorno durante l'anno il contatto con migliaia di filmmaker in tutto il mondo, per cui senza strumento indispensabile, senza internet e senza la tecnologia digitale non potrebbe esistere un evento del genere, perché i film si fanno con pochi soldi e velocemente con il digitale, e tutta questa comunità sparsa per tutto il mondo si tiene insieme grazie al web. Franco, in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie per questa ospitalità, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori. Ciao. Franco Rina, direttore della 7ª edizione di Cinema da Mare, dal 4 luglio al 16 agosto, un festival itinerante nel sud. Pierccarlo, buon pomeriggio. Ciao Federico, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Come stai? Benissimo, benissimo. Rinvigorito dal sole e dall'estate, una meraviglia, adoro questa stagione. Allora, è un po' che non ci sentiamo, mi sembra di ricordare. Sì, sì, è vero, è vero. Quindi abbiamo un po' di cose di cui parlare, tra novità e cose vecchie. Da cosa comincio? Vecchie. Fai tu, guarda, come ti viene. Vabbè, allora cominciamo con le cose che maltratterò, poi diciamo che ci riprendiamo con le cose piacevoli da recuperare durante l'estate, magari, insomma. Okay. Cominciamo dai con l'uscita più attesa, quella, insomma, il blockbuster dell'estate, queste, insomma, tutti l'aspettavano da novembre, il sesto film su Harry Potter, e finalmente è uscito. Come ti dicevo, io ho visto solo il primo. Esattamente, sì, vabbè, ok, quasi tutti aspettavano il sesto film, diciamo così. Okay. Comunque ha battuto record di incassi a destra e a manca, quindi in America e da noi in Italia, insomma, cose turche, cose diciamo. Turche. Ne vale la pena? No, in realtà no, no. Però insomma la storia è abbastanza, per chi conosce la saga più o meno la conosce, insomma, c'è Harry Potter, il mago interpretato da Daniel Radcliffe, ormai ventenne, cresciutissimo, insomma, rispetto al primo episodio che tu hai visto è cambiato parecchio il ragazzo, questo insomma bisogna dirlo, che comincia ad indagare, insomma, su quelli che possono essere i punti deboli di quello che è il suo nemico Voldemort, interpretato da Ralph Fiennes, e per farlo, attraverso il suo maestro e mentore, il preside di Hogwarts, la scuola di magia dove appunto lui studia, appunto Albus Silente, comincia ad indagare nel passato di Voldemort, da quando era bambino fin quando appunto è cresciuto e i primi cenni di malvagità cominciavano a mostrarsi in lui, per cercare di scoprire appunto quali possono essere i punti deboli per poi sconfiggerlo definitivamente. Nel frattempo varie sottotrame tra virgolette amorose si intrecciano, perché i suoi due amici Hermione Granger e Ron Weasley cominciano, insomma, a provare qualcosa che va oltre l'amicizia l'uno per l'altro, insomma, attenzione, i ragazzi cominciano ad avere 17 anni, i bollori sono quelli, insomma, diciamolo, e quindi insomma qualcosa in e lo stesso Harry comincia a provare una specie di attrazione per qualcuna, che ovviamente qui non vi sto a svelare, insomma, tanto qualcuno lo andrà a vedere questo film, quindi insomma non mi sembra giusto stare dare troppi dettagli. Una trama quindi che mescola da un lato la parte più tetra e più oscura, perché insomma Voldemort sta lentamente prendendo possesso del mondo magico, i suoi attentati cominciano a farsi sentire anche sul mondo dei babbani, saremmo noi, gli umani senza poteri magici sostanzialmente. Sono quindi, insomma, un babbano senza saperlo, vedi? Sei un babbano senza saperlo, e io mi vergognerei anche un po' per questo, guarda, io non uscirei più di casa almeno per un paio di settimane, guarda. Vabbè, dai, okay. Ci provo. Dai. Non garantisco, ma figurati, tanto chi se ne accorge, insomma, i maghi se ne stanno a casa loro, insomma, figurati se è un problema. E invece appunto dall'altra parte invece c'è questa sottotrama più leggera su questi approcci con l'altro sesso, un po' esilaranti, un po' divertenti, un po' strani, insomma. David Yates, che era il giovane semi-esordiente, anche se aveva 45 anni, quindi insomma non proprio un giovincello, che appunto era esordito con il quinto capitolo, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, è confermato per questo sesto film e oltretutto sarà il regista anche degli ultimi due episodi, il settimo e l'ottavo. E dimostra di essere un incapace, un sospetto che io già avevo nel quinto film, sinceramente. Non riesce assolutamente a trovare un equilibrio tra queste due tonalità, tra questi due diversi registri, cosa che invece era riuscita molto bene a un regista molto capace che si era cimentato con la saga di Harry Potter, Mike Newell, nel regista di Quattro matrimoni e un funerale, di Donnie Brasco, nel quarto film, che aveva più o meno le stesse problematiche, perché aveva un finale molto tragico, una storia comunque molto tesa, di davvero thriller poliziesco, però alternava anche a elementi comici in cui appunto i ragazzi cominciavano ad avere le prime storielle, i primi innamoramenti e cose del genere. Mike Newell riusciva a tirar fuori un film teso, interessante, avvincente ed emozionante. David Yates, come già nel quinto film, tira fuori 2 ore e mezza di film noiosissimo. considerando che poi dai fan è considerato il sesto libro il più avvincente per certi aspetti, e il più emozionante appunto, il più tragico anche per altri aspetti, diciamo che è un bel risultato di riuscire a fare un film del genere con un materiale simile, insomma. E questo ovviamente fa mal sperare tutti i fan per quello che saranno gli ultimi due film della saga, insomma. Venendo invece ad un'altra nuova uscita, questa si tratta di un'uscita invece di venerdì, sì. È un film che abbiamo visto insieme, tra l'altro, si tratta di Notorious. Notorious. La storia del rapper Notorious B.I.G., il gangster rapper della scuderia di Puff Daddy, che fu assassinato nel 1997 a soli 24 anni a seguito di una faida che si era venuta a creare tra le case discografiche della costa est di cui lui faceva parte, essendo di Brooklyn, e le case discografiche invece della costa ovest di cui faceva parte un altro grande rapper assassinato proprio in quel periodo, Tupac Shakur, conosciuto molto... anche al cinema. Esattamente, anche lui ha avuto il suo passaggio cinematografico. E la storia è stata diretta da George Tillman Jr., ricordabile a stento in realtà, ma neanche troppo, insomma, per Man of Honor con Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. E descrive appunto tutta la vita di questo rapper, dall'infanzia particolarmente disagiata nel quartiere povero di Brooklyn, tra l'altro lui afroamericano, piuttosto sovrappeso, diciamocelo, non era proprio uno magrissimo il ragazzo. No, era grasso. Era decisamente grasso, con due occhiali spessi, insomma, immaginiamo che l'adolescenza in quel quartiere non doveva essere stata delle più semplici e felici, sì, per lui. Quindi vediamo la sua storia, lo vediamo diventare uno spacciatore di droga particolarmente spietato, particolarmente crudele, finché appunto non ha il colpo di fortuna di incontrare Puff Daddy, che diventerà poi suo amico, mentore, produttore, confidente, insomma tutto quello che di buono c'è nella vita di Notorious B.I.G. Nel film è rappresentato da Puff Daddy sostanzialmente. E qui viene il sospetto che magari il fatto che Puff Daddy fosse anche il produttore esecutivo del film forse qualcosa vorrà dire, insomma. E questo è uno dei difetti del film, nel senso che i biopic di questo tipo hanno il compito ovviamente di rendere omaggio ad una figura. Però ricordiamo il caso più recente, il caso di Ray, dedicato a Ray Charles con lo straordinario Jamie Foxx. Anche lì comunque c'era un omaggio dichiarato ad una musica, ad un periodo storico, a quello che Ray Charles aveva potuto significare anche con la sua difficoltà fisica, il suo essere cieco, insomma tutto questo. Però anche i suoi difetti, il suo essere fondamentalmente un personaggio non del tutto positivo, con i suoi problemi con le droghe, i suoi problemi familiari, non si andava leggeri da quel punto di vista. Sostanzialmente si sottolineava come quell'uomo riuscisse a essere un simbolo importante nonostante quei difetti. Nel caso di Notorious, questa almeno è l'impressione che ho avuto, c'è troppa voglia di fornire un'apologia senza macchie di questo personaggio. I difetti di Notorious ci sono, il film li mostra, e si percepisce che sono anche difetti piuttosto gravi, perché insomma nella sua carriera di spacciatore, una scena particolarmente importante del film mostra lui che dà la dose a una donna incinta, il come padre almeno fino alla fine del film si rivela completamente assente, completamente catastrofico, per non parlare poi dei rapporti con le donne che lui maltrattava senza soluzione di continuità, proprio non aveva il minimo rispetto per le figure femminili che hanno caratterizzato la sua vita, forse un barlume per la madre, ma neanche tantissimo poi. E tutti questi difetti così gravi vengono comunque sempre subordinati alla sua capacità, che alcune volte non si capisce bene da dove venga fuori, altre volte mi sembra piuttosto banalizzata, nel senso che lui con una battuta poi risolve tutto, appunto dalla sua capacità di redimersi, fino ad un finale poco prima poi della scena dell'omicidio, in cui lui fa, nel giro di 5 minuti fa telefonate agli amici, alle ex amanti, ai figli, e dice sistemiamo tutto perché sono cambiato, sono maturato, e mi sembra una soluzione piuttosto facile. Io l'ho trovato un po' superficiale da quel punto di vista. Quindi, un po' celebrativo, dai. Decisamente, decisamente. Poi, per carità, che lui fosse un simbolo importante si capisce anche dalle immagini di repertorio che poi vengono mostrate sul finale. C'è stato questo enorme funerale nei suoi confronti, con il feretro che ha attraversato le strade di Brooklyn, con appunto tutti i ragazzi di strada di Brooklyn ad applaudire e ad omaggiare questo loro simbolo. Però paradossalmente proprio quell'aspetto che poteva sembrare il più forte, cioè il suo essere un ragazzo del ghetto che comunque ce l'aveva fatta in qualche modo, è quello anche un po' più trascurato per invece lasciare spazio alla sua vita personale, la cui descrizione però è appunto superficiale, come ho detto. Quindi non mi ha convinto molto, sinceramente, ed è un peccato, perché insomma di materiale interessante ce n'era. Nelle vite di questi rapper americani ce n'è tanto. Piercarlo, volevo chiederti, mi è venuto in mente adesso, dando una scorsa ai film che insomma mi sentivo di suggerire, se avevi visto Look Both Ways, Amori e Disastri, il film australiano. Assolutamente sì, l'ho visto, ed è un'uscita appunto, sì, effettivamente è il caso di consigliarla, perché è in poche sale, insomma, la distribuzione non è delle più felici. Si tratta dell'esordio cinematografico con il lungometraggio di Sarah Watt, questa regista australiana con alle spalle esperienze con cortometraggi di animazione, e questo si vede nel film, tra l'altro, notevolmente. La storia di quattro personaggi che vengono tutti da insomma notizie non proprio confortanti, anzi decisamente destabilizzanti. C'è Nick, un fotoreporter che scopre di avere il cancro. C'è il personaggio poi di un suo collega che a sua volta scopre che la compagna con cui ha una storia occasionale, Anna, è rimasta incinta. C'è poi appunto il personaggio principale, appunto questa straordinaria protagonista che si chiama Meryl, e che scopre invece di è reduce dal funerale del padre. Mm-hmm. Quindi questa coltre di amarezza e di malinconia, sì, soprattutto ecco, legata alla morte e al disagio esistenziale. Esatto. Anche perché, e che poi soprattutto all'inizio, secondo me molto funzionale del film, descrive come quando poi una cosa va male nella nostra vita, poi tutto il mondo sembra andar male. Quindi ci sono questi telegiornali che ripetono in continuazione notizie di disastri, di treni deragliati, anche quello elemento centrale del film, a partire dallo stesso titolo, Look Both Ways, è il cartello che si legge sui binari, guardare da entrambe le direzioni sostanzialmente. Quindi questa coltre di malinconia, con poi un ottimismo però che percorre le vite di questi personaggi senza diventare però troppo stucchevole o retorico. È stata poi la chiave che a me ha fatto apprezzare di più questo film, che ha dei difetti, perché insomma a partire dal titolo c'è qualche didascalia di troppo nel corso del film, qualche frase lanciata un po' così, me ne viene in mente una: non importa come finisce una vita ma come è stata, che viene detta dal padre di Nick dalla madre di Nick a suo figlio, riferendosi al padre morto anche lui per cancro. Però insomma sono difetti su cui si passa sopra abbastanza agilmente, perché comunque è un'ottima messa in scena di un messaggio interessante, di un messaggio ottimista, finalmente non banale, perché e non furbo, perché una cosa che ho notato è che la sofferenza e il dolore non sono spettacolarizzati, non ci si insiste troppo, non sono funzionali, sono molto vissuti, quindi la commozione che poi prova lo spettatore è vera. Anche scegliendo però delle soluzioni registiche particolari, dicevamo prima l'animazione. Per fare un esempio, il personaggio di Meryl, che è una disegnatrice, immagina, proprio perché completamente distrutta dall'esperienza del funerale del padre, immagina la sua morte con dei disegni animati a seconda delle situazioni che lei si trova a vivere. Quindi passa accanto ai binari e si immagina un treno che le deraglia addosso, tutto a cartoni animati, insomma. Quindi sono soluzioni comunque interessanti per un film che appunto descrive molto bene gli stati d'animo, riesce a far entrare in sintonia con quelle che sono le sensazioni vissute dai protagonisti, e questo è un ottimo risultato, insomma. Caro, t'abbraccio e alla prossima. Ti saluto, Federico, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Nicola Falcinella, ben trovato, è un po' che non ci si sente. Buongiorno, sì, bentrovati anche a voi. Allora, sempre in movimento. Sì, sempre in movimento, però stavolta sono reduce da un paio di giorni di vacanza, quindi è un movimento va positivo. Bene, va bene. Non è il solito movimento tra festival, proiezioni, insomma, un movimento sano. Allora, per quanto riguarda film in sala o in uscita, che cosa qualche indicazione ce la dai? Ma allora, consiglio Notorious B.I.G. Mm-hmm. che esce domani. Sì. Non è un capolavoro, però un buon film, è una cosa interessante soprattutto per chi ama il rap e chi ama il rap anni 90 e mm-hmm. il film è la storia di un po' Notorious fu un rapper ucciso nella guerra dei rapper tra la seconda ovest e la seconda sì, est. Sì, sì, ne abbiamo parlato poc'anzi. È un film biografico, un musicista ucciso giovane, quindi ha un po' la struttura di tutti i film biografici, alla fine si somigliano, la lotta per arrivare al successo, il successo, la caduta, la morte, così. Però insomma ha una forma un po' diversa dal solito, su una struttura abbastanza convenzionale. Mm-hmm. E non è male. Poi c'è Harry Potter, insomma, io non sono un potteriano, però è uno di quelli che mi è dispiaciuto di meno della serie. Sì, il problema è la lunghezza, 2 ore e mezzo, ormai tutti durano 2 ore e mezzo, che siano Transformers, che siano Harry Potter, questo è un grosso problema. Poi 8 film della durata di cioè una serie di 8 film come Potter della durata di 2 ore, 2 ore e mezzo, insomma, un po' eccessivo. Di IMAT ce n'è uno. L'hanno pensati come dopo scuola proprio. Sì, più tempo possibile per tenere sì. i ragazzini. Ma se guardate che io ho sentito gente adulti, cioè gente di 30 anni così, che dire: ah no, se dura soltanto 1 ora e mezza non vado neanche a vederlo. È una nuova tendenza, vedi, non lo sapevo. Sì, come il salame, come il prosciutto, non so. Io preferisco un bel film di 1 ora e mezza che un film noioso di 2 ore e mezzo, però ognuno ha i suoi gusti. Ah, sicuramente. Però Potter ha delle cose interessanti. Mi sembra che, a parte un cast di attori, e soprattutto gli adulti, sono tutti dei grandissimi attori, e David Yates, il regista, ha la mano molto più per la commedia che per la parte più fantasy, così. Mm-hmm. Non so, a me vedere Helena Bonham Carter così, senza Tim Burton, mette un po' di triste. Cioè, così era una cosa un po' da Burton, ma senza l'atmosfera di Burton, senza le letture di Bach, e quindi insomma, però Potter è commestibile, diciamo. e poi mi pare che nel fine settimana di commestibile non esca molto. Sì. Però c'è la possibilità di recuperare un po' di film usciti. Non so, io non capisco perché il film di Madonna sia andato male. Secondo me il film di Madonna è un film buono, originale, cioè Madonna, io non sono un fan di Madonna, anche qua, però Madonna è una delle poche artiste di questi anni che è sempre avanti, che comunque merita di essere ascoltata, considerata. Poi può piacere o non piacere, alcune cose mi piacciono, altre no, però insomma è una che non si accontenta, che comunque. E questo film è interessante anche soltanto per l'interpretazione del cantante dei Gogo il Bordello. Comunque è un buon film. Poi un altro film che recupererei è Amori e altri crimini, che è un film di film d'esordio di un regista serbo. Sì. E anche questo Svolge a Belgrado. Sì. Belgrado, vabbè, io per ragioni che mi sono innamorato di quella città, però insomma è un film abbastanza corale su una città che si muove alla ricerca di se stessa e queste persone anche alla ricerca di se stesse. Sì, e poi c'è stagione di, anche di arene estive, di recuperi di film, sì, sì, della stagione scorsa. E quindi non so se ci sono dei film da recuperare della stagione scorsa, sicuramente Ponio e Gran Torino. Ponio e Gran Torino a Roma e nel Lazio è ancora nelle sale, per cui si può anche recuperare. Sì, mi dicono degli esercenti che quando una sala ha delle difficoltà mettono Gran Torino e recuperano. Si risollevano. Sì, Gran Torino è una garanzia. Sta andando benissimo. Invece Ponio, ecco un altro mistero, non capisco perché sia andato male, perché Ponio è un film veramente, ci si può portare un bambino di 3 anni o uno di 90 e funziona, ma anche uno di 30 o di 50 e funziona. E poi cosa c'è in giro? Guarda, ma a Mila- come? Noi abbiamo parlato di Look Both Ways, Amori e Disastri, e poi io però così a livello personale segnalo State of Play e anche Garage. Io ho perso entrambi. Entrambi, va bene. Non posso consigliare, però cioè, per Milano c'è questo film Tre Lire, Primo Giorno, che è un film. Ah sì, abbiamo avuto ospite Andrea all'inizio della trasmissione. È un film abbastanza insolito come film nel panorama italiano proprio, sì, come sì. E poi anche loro ne avrete parlato della come l'hanno distribuito, sì hanno un gestore di sale, una delle poche sale rimaste in città a Milano, e sta durando da diverse settimane, sì. Fino a domenica ci sarà una festa, sì. E poi lo terranno ancora, insomma. È un film che grazie al passaparola così si è trovato un pubblico, è un film davvero originale per il panorama, non sembra neanche italiano, è un film semplice, non pretenzioso, però uno ci si può identificare. Sono proprio curioso, guarda, di poterlo vedere. Spero per loro che riescano ad andare oltre queste proiezioni milanesi. Sì, sì. So sì. Che ci stanno provando e speriamo. Vediamo un po'. Speriamo che i gestori non si mangino le mani come hanno fatto per Il Vento fa il suo giro. Cioè, visto che ci sono stati dei gestori che l'hanno rifiutato e si sono mangiati le mani, questo non è Il Vento fa il suo giro. Cioè, non ha quella portata proprio quasi archetipica di però è una cosa, si sente un'onestà di fondo, non è il film furbo. Questi avevano voglia di fare un film, l'hanno fatto insieme, l'hanno fatto in quattro, prodotto, uno fa l'attore, uno l'ha montato, uno ha fatto la regia, l'altro ha fatto il direttore della fotografia. Insomma, è forse un insegnamento di quello che si può fare adesso. Tutti ci lamentiamo e tutti continuiamo a fare le cose da soli. E forse invece loro avevano due piccole società e erano in due trentenni, 35enni in ciascuna società, si sono incontrati, hanno deciso di lavorare insieme, forse questo, però ecco, serve un po' d'umiltà. Io mi è capitato di scrivere a proposito di questo film che la maggior parte degli esordienti italiani credono di essere i Lumière, e invece no, i Lumière ci sono stati grandissimi registi, è difficilissimo eguagliarli, posto anche di avere i mezzi, perché comunque il cinema è un'industria e senza i mezzi è proprio difficile fare le cose bene. E l'umiltà e sapere quello che si fa è importante. Quindi il lavoro di Andrea, di Morgan e Fabrizio e Giordano è ancora più ammirevole per questo, perché sono messi a lavorare sapendo, ponendosi degli obiettivi realistici però ambiziosi. Bene, Nicola, allora io ti saluto e spero di sentirti presto. Va bene. Ok. A presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Oh, dovremmo avere un ultimo collegamento, tanto possiamo, cioè, dopo di noi non c'è seconda società, come generalmente avviene invece il giovedì, quindi quest'oggi potremmo allargarci un po'. Bentrovato a Gianvito Casadonte, direttore della sesta edizione del Magna Grecia Film Festival a Soverato, Catanzaro, 18-26 luglio. Bentrovato. Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto qui bene. Siamo alle prese, siamo in ufficio con la squadra, ci stiamo preparando. Anzi, salutate Radio Onda Rossa, ragazzi! Ah, mi avete sentito? Bello, bello, c'è stata la risposta di gruppo, bello. Senti, e niente, si sta lavorando, si parte il 18, si procede, insomma, sesta edizione, grandi opere prime, una grande giuria, collegamenti Rai, partnership con Rai Sat Cinema, eventi collaterali, insomma, stiamo lavorando. Bene, bene. Per quanto riguarda i film che avete selezionato, ci puoi fare così una generale panoramica? Sì, ma basta andare su magnagreciafilmfestival.it o mgff.tv e a vedere sia i video del festival che il festival di per sé con i film. Apriamo con La Sicilia Ribelle, che è il primo film in concorso di Marco Amenta, ricorre anche l'anniversario di Paola Borsellino e di Rita Atria, quindi ricorderemo questi grandi uomini e grandi donne che hanno lottato la mafia. Bene. Senti, per quanto riguarda gli ospiti? Beh, tanti ospiti, condurrà la serata finale Valeria Marini, ospiti guest star da Nicola Piovani a Riccardo Scamarcio, a Gabriel Garco, a tanti altri, e poi grande mostra di Ettore Scola, che è il presidente di giuria, che ci darà questa una mostra importantissima, che è il lato buffo dell'esistente, che è una cosa da vedere dal 20 al 26 luglio a Soverato, quindi grandi emozioni che vivremo dal 18 luglio ogni giorno. Benissimo, allora Gianvito, in bocca al lupo e un abbraccio. Vi aspetto il 21 luglio per l'assegnazione della colonna d'oro a Nicola Piovani, promozione del cinema italiano nel mondo, quindi anche grande grande incontro con il maestro Piovani. Bene, bene, bene, sono contento. Allora un abbraccio e a presto. A presto, a presto. Ciao, a presto. Caro, ciao. Ciao, ciao. E siamo in chiusura, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Per saperne di più potete consultare il sito della radio, sia www.ondarossa.info, per gli ospiti, per riascoltare la puntata precedente, per le uscite in sala, per le nostre indicazioni sui film già in programmazione e poi per quanto riguarda i film della settimana su piccolo schermo. E basta, mi sembra tutto. A giovedì prossimo, baci, abbracci, buon proseguimento.